Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno, rieccoci alla nostra finestra sul cortile. Buon anno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Thank God it's over. Grazie a Dio è finito. È l'augurio che ci siamo tutti quanti rivolti con il calice in mano alla mezzanotte del primo dell'anno. È un augurio un po' curioso perché era più un sollievo che l'anno vecchio fosse finito piuttosto che un benvenuto all'anno nuovo. Ci lasciamo alle spalle quello che molti considerano l'anno peggiore della nostra vita, ma facciamoci coraggio perché il 2009 potrebbe essere anche peggio. Ormai abbiamo imparato che al peggio non c'è limite e non bisogna credere ai mercanti di illusioni. E non ci resta che sperare in un miracolo, nel carisma di Obama o nella magia di Harry Potter. Sperando che non sia un'altra bolla come quella che è scoppiata sui mercati finanziari, lasciandoci tutti giù per terra. Oggi più che mai ci vuole fede, ma le vocazioni scarseggiano tanto in campo cattolico quanto in campo laico. E di crisi, di speranze, di fede parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il nostro sommario. Germania. Presto in libreria un nuovo libro di Peter Sloterdijk. Per il filosofo è Harry Potter l'eroe del neoliberismo che ci ha cacciato nei guai. Stati Uniti. Le vocazioni sono in calo e sul settimanale cattolico America un gesuita indica come portare nuova linfa alla Chiesa. Spagna. Le donne di Miró. A Mallorca una mostra ripercorre il turbolento rapporto fra l'artista e la figura femminile. Francia, la Parigi dei Miserabili di Victor Hugo rivive in due mostre. Turchia, riabilitato il poeta Nazım Hikmet, esule negli anni 50 perché filomarxista. India, il terribile 2008 si è chiuso e Outlook India lo festeggia con una copertina speciale. Thank God it's over. Da cosa nasce la crisi delle vocazioni nel mondo cattolico americano e non solo americano? E come si può rimediare a questa crisi? È il tema di un articolo di Richard Malloy sul settimanale cattolico America. Il titolo dell'articolo è Making a Mark, lasciare un segno, come attrarre i giovani al sacerdozio e alla vita religiosa. Questo lungo articolo, firmato appunto da Richard Mello, è di un antropologo che insegna al Chestnut Hill College di Filadelfia ed è un gesuita. Inizia citando due aneddoti, cioè uno di un dottorando in filosofia molto promettente che, interpellato da lui se volesse così vestire l'abito del gesuita e abbracciare la carriera ecclesiastica, gli ha risposto: beh, sono molto onorato, ma c'è soltanto un piccolo dettaglio. E allora Mello gli dice: ma quale sarebbe questo dettaglio? Pensava, non so, sarà il celibato oppure il voto di povertà o l'obbedienza. E l'altro dice: no, veramente, dice, io non credo in Dio. E questo evidentemente è un ostacolo piuttosto insormontabile. Un altro giovane, un tale Matthew, un irlandese molto energico e deciso, con una grande capacità anche organizzativa e di imporre la disciplina agli studenti, dice io certo mi piacerebbe abbracciare la vita religiosa, il sacerdozio, ma che cosa consiste oggi fare il gesuita? Dice: il mio timore è che, essendo un prete, non puoi lasciare un segno nella società.

delle prigioni turche, che non sono propriamente dei residence comodi e confortevoli. E il povero Hikmet adesso finalmente riceve delle onorificenze dalla sua patria, che gli riconosce una cittadinanza postuma. Certo, sarebbe meglio che, più che riabilitare i morti, che tanto non danno più fastidio, i governanti di Ankara rispettassero i diritti dei vivi, soprattutto di quelli che dicono o scrivono verità scomode per il potere. La finestra sul cortile. È tempo di cambiar vita. Il mondo moderno versa in uno stato di plurimalattia cronica e parlare di crisi è sbagliato, perché la crisi presuppone che ci sia, come nelle malattie, qualcuno che guarisce e qualcuno che soccombe, i microbi o insomma gli agenti infettivi che ci portano alla malattia. Nel caso invece della crisi finanziaria mondiale, questo processo non avviene, perché da una crisi ne nascerà un'altra e probabilmente si arriverà a una crisi finale. Sono parole di Peter Sloterdijk, il filosofo tedesco, uno degli intellettuali più controversi. Intervistato dalla Süddeutsche Zeitung, Sloterdijk si sofferma su quelli che sono i temi del suo prossimo libro, che uscirà in Germania a marzo e che è intitolato per l'appunto Devi cambiar vita, sull'antropotecnica, un neologismo che riguarda per l'appunto quelli che sono i comportamenti collettivi nelle società industriali avanzate in un momento di grave crisi mondiale. E tra l'altro, in questa intervista, Sloterdijk giunge a paragonare l'eroe della saga di Harry Potter con quello che dovrebbe essere proprio l'emblema, il prototipo del neoliberista, perché vende la parola Potter, significa vasaio, quindi un artigiano che produce corpi vuoti. E questo significa che, come i venditori di titoli tossici di hedge fund, così cerca di propinare al prossimo delle strutture, dei prodotti vuoti che fanno credere che siano magici, ma che in realtà creano soltanto una parvenza di magia, ma lasciano le cose come stanno. Ma per parlare di questi temi abbiamo al telefono un ospite, il professor Aldo Schiavone, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno. Aldo Schiavone, autore tra l'altro di Storia e Destino, un bel libro uscito da Einaudi, un manifesto del nuovo umanesimo, e anche di Ius, Invenzione del diritto in Occidente, insegna all'Istituto Umanistico Italiano. Professor Schiavone, come vede questo approccio così un po' catastrofista di Sloterdijk rispetto alla crisi, che dice non ne usciremo in realtà né con le magie di Harry Potter né con altre alchimie, ma dobbiamo abituarci al fatto che sarà una crisi permanente? Io devo dire non sono molto d'accordo, nel senso che io credo che questa crisi sia grave, che tocchi aspetti, come dire, strutturali nel modello di sviluppo che il pianeta, che il mondo si è dato negli ultimi 10 o 15 anni. Dobbiamo cambiare radicalmente alcuni modi di pensare e alcuni modi di comportarci, e anche una forma generale della politica che ci siamo dati in questi anni. Però io credo che da questa crisi usciremo, e credo che questa crisi non è che un momento di un processo, di un ciclo che si svilupperà su tempi molto più lunghi, che durerà molti decenni. Fin dove riusciamo a spingere lo sguardo, non vediamo altro che lo sviluppo di questa rivoluzione della tecnica. Abbiamo gestito male dal punto di vista delle scelte politiche e dei comportamenti collettivi, questo avvio, ma forse era anche inevitabile. Ecco, infatti, proprio su questo punto dell'eccessivo intervento dell'uomo sulla natura e quindi dei problemi ambientali che ne conseguono, attira l'attenzione Sloterdijk, che dice: se noi non cambiamo strada ci troveremo presto di fronte ad una catastrofe ambientale che non riusciremo a controllare. Lei ha invece messo più l'accento nel suo libro e anche in suoi recenti interventi su Repubblica sul fatto che i confini tra naturale e artificiale si sono molto spostati e perfino il nascere e il morire non sono più eventi naturali, sono ormai dominati dalla cultura e dalla tecnica, e con questa nuova realtà dobbiamo comunque fare i conti, no? Affrontando anche gli interrogativi etici che tutta questa rivoluzione comporta. È così, lei imposta il problema in termini molto corretti. Vede, io credo che noi, lo dicevo prima, dobbiamo, come dire, cambiare la nostra mentalità, ma questo cambiamento non significa che dobbiamo fare dei passi indietro. L'uomo è sempre intervenuto, certo, sulla natura, da quando esiste. Ora solo una potenza di intervento molto maggiore, ma il punto è saper dosare e saper, come dire, immettere ragione, cosa che non sempre abbiamo saputo fare. Io non credo in un ecologismo, dico subito, difensivo. Io credo in un ecologismo positivo, cioè interveniamo in modo tale da fare in modo che la natura possa rimanere come vogliamo che noi sia. Credo che in questi 20 anni noi abbiamo assistito, e questo è lo sbagliato, ad una specie di ritrarsi della politica, ritrarsi dello Stato, in qualche misura anche ritrarsi della democrazia dalla scena del mondo, perché abbiamo avuto l'idea che tutto potesse essere deciso sul piano del mercato, della mano invisibile del mercato. Quindi più consumi, più mercato, più individualismo consumistico, più onnipotenza del mercato, e tutto si risolve da sé. E quindi meno politica, meno Stato, temo, ripeto, molto spesso anche meno democrazia. Questo è profondamente sbagliato, però forse, io lo dicevo prima, è inevitabile. È stato inevitabile perché tutti i grandi momenti di rivoluzione tecnologica, pensiamo alla rivoluzione industriale 200 anni fa, la seconda rivoluzione, sì, tecnologica della storia dell'umanità, sono stati sempre accompagnati da forti spinte alla deregolazione, diciamo, al ritrarsi della politica, no? A momenti, come vogliamo chiamare, di capitalismo selvaggio. Certo, i bambini, certo, no? Tra la fine, i romanzi di Dickens, e gli anni 40 dell'Ottocento, che prezzi sociali spaventosi ha fatto pagare alle classi popolari inglesi e fuori dall'Inghilterra, all'impero, lo sfruttamento, diciamo, colonialista, eccetera. Poi ci sono sempre stati dei momenti di ritorno in cui si vedeva che, come dire, il liberismo selvaggio, il capitalismo selvaggio creava più problemi di quanti non fosse in grado di risolverne da soli. Ecco, noi siamo in una fase analoga, noi ci stiamo accorgendo che in un momento di sviluppo tecnologico accentuatissimo il mercato, per così dire, lasciato a se stesso, e crea più problemi di quanto non ne risolta. Ecco. E quindi abbiamo bisogno di un ritorno in grande stile, di un'iniziativa politica. Esattamente. Esatto. Infatti è quello a cui accenna alla fine dell'intervista Sloterdijk, sì, quando, sì, esatto, quando dice: Barack Obama impersonifica l'appello a cambiare, dice: abbiamo alle spalle un periodo, sì, di incredibile stupidità, lui dice, quello di Bush, sì, Junior, la buona notizia è che intelligence is back. Ecco, questo, concludiamo su questa nota di speranza e speriamo di non rimanere delusi, e salutiamo il professor Schiavone, grazie di essere stato con noi, grazie, buona a lei, giornata. Grazie a lei. Thank God it's over, dicevamo all'inizio di questa trasmissione, e grazie a Dio è finito, è proprio il titolo con cui la rivista indiana Outlook India saluta il 2008, considerato l'anno peggiore nella storia del paese. C'è per l'appunto un articolo di Ramachandra Guha, uno storico indiano, che enumera così tutte le disgrazie di cui questo anno è stato costellato. gli attacchi terroristici, di cui naturalmente il principale, il più terribile, è quello di Mumbai, ma ce ne sono stati altri precedenti, a Delhi, a Ahmedabad, a Bangalore, a Jaipur. E poi ci sono state le stragi dei cristiani, le chiese distrutte, e ci sono stati scontri identitari tra fazioni e tribù in varie parti dell'India, senza contare poi i disastri naturali, alluvioni e cicloni. Quindi un anno da dimenticare? Beh, dato che il signor Ramachandra Guha, l'autore dell'articolo, ha una certa età, si ricorda il 1984, anno in cui peraltro si sposò, e non è questa ovviamente la sciagura di cui lui intende parlare, ma che fu l'anno in cui Indira Gandhi fu assassinata, ci furono le rivolte dei Sikh e anche l'incidente orribile, l'incidente chimico di Bhopal. Quindi ci si può talvolta consolare guardando alle disgrazie del passato, ma le disgrazie vicine sono sempre le più grandi. E ci spostiamo a Parigi, dove due esposizioni a due passi una dall'altra permettono di rivivere il romanzo più popolare dell'Ottocento, I Miserabili di Victor Hugo. Una parte della mostra è al Musée Carnavalet e l'altra è nella Maison di Victor Hugo, nella casa natale del grande scrittore. Al Carnavalet si possono ammirare le vedute della Parigi di Victor Hugo, con l'elefante della Bastiglia, le barricate, il convento di Picpus. E tutto uno scenario urbano poi scomparso negli anni successivi. Nella casa di Victor Hugo invece ci sono tutte le edizioni illustrate, i manoscritti, anche le immagini sulle quali lavorava lo scrittore, dalle prigioni del Piranesi ai dipinti di Géricault che gli hanno ispirato la figura di Jean Valjean, alla statua di Rodin e così via, insomma, e c'è anche un confronto con l'arte contemporanea. Certo, Les Misérables non potrebbe essere un romanzo più adatto e più in sintonia con il nostro stato d'animo di questi giorni, all'inizio di questo anno di recessione. E per oggi è tutto. Ringrazio Laura Marchesi e Daniele Casagrande in redazione, Filippo Aureggi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora. Buon weekend a tutti.